brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi ci muoveremo su un terreno piuttosto atipico rispetto alla consueta leggerezza con cui affrontiamo la realtà, perché oggi parleremo di un argomento che merita rispetto, attenzione, e soprattutto merita una profonda documentazione. Per farlo abbiamo in studio persone informate dei fatti, per usare un termine noto oggi alle cronache giudiziarie. Ma vorrei partire con una suggestione, visto che quello che noi faremo oggi è il racconto di un figlio che parla del padre, di un padre famoso, noto, tristemente noto, noto in maniera imbarazzante, il cui nome è un peso abbastanza ponderoso, anzi molto ponderoso per un figlio. Un ragazzo che accompagna il padre dal barbiere nei rituali familiari obbligatori a una certa latitudine, che è quella della città di Palermo, e si accorge di una certa cosa. A un certo punto la mia attenzione si soffermò su un servizio dedicato ai grandi latitanti. Il giornale ricostruiva al computer il volto invecchiato di uno dei mafiosi più celebrati e al tempo stesso più sconosciuti, Bernardo Provenzano. Papà, hai già visto le foto d'epoca di questa settimana? Sì, ciao. Fammi un caffè. Guarda qua. Questo è preciso all'ingegnere Roberto. Per me è lui. Impara. Mettetelo bene in testa. Che non si può sbagliare. In questa cosa del medaglio ti posso proteggere. Attenzione, dice il padre al figlio, attento, perché su quello che ti sto dicendo non si possono fare errori. Da queste cose poi nemmeno io ti posso proteggere. Francesco Lalicata, buongiorno. Buongiorno. Francesco Lalicata è un mio collega, caro amico della stampa, è giornalista e autore assieme a Massimo Ciancimino di Don Vito, edizioni Feltrinelli. Le relazioni segrete tra Stato e mafia nel racconto di un testimone d'eccezione. Chi era questo ragazzo che andava dal barbiere con il padre? Chi era il padre? Allora, il padre era il sindaco di Palermo. È stato sindaco di Palermo seppure per un brevissimo periodo, ma è stato per lungo tempo assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica, ed è quindi passato alla storia e identificato come l'autore del famigerato sacco di Palermo, che negli anni 60 e 70 distrusse tutte le ville Liberty del Boulevard della Libertà nel centro della città e li sostituì con enormi palazzoni. Quello che fu lo scempio edilizio in tutta Italia, sparpagliato nell'Italia, l'uccisione di un patrimonio paesaggistico in nome della speculazione, lì ebbe il suo centro vitale più importante. Il centro promotore che poi si irradiò nel resto del territorio nazionale. Diciamo la case history, nacque lì, lì si sperimentò il sistema e si applicò poi al resto dell'Italia. Esatto, e lì lo faceva in sinergia con la mafia, che è un elemento che nel resto dell'Italia... Che era territoriale invece. Lì il dato caratteristico era questa sinergia con la mafia. Vito Ciancimino infatti fu sindaco di Palermo per volere della mafia corleonese, che in contrapposizione alla mafia palermitana voleva il proprio sindaco. Questo ragazzo si accorge quindi una mattina che il padre non era quella persona che lui immaginava, o c'era qualcosa che non capiva. Si accorge soprattutto che un simpatico signore, un anziano signore che frequentava casa sua e che gli dava i buffetti sulle guance e gli raccomandava di essere ubbidiente e di non fare disperare il papà, era il capo di Cosa Nostra, latitante da una trentina d'anni. 800240024, vedete, l'argomento è di stretta attualità. Aprite, sfogliate i giornali di oggi, leggete le cronache del ricordo della strage di Capaci, leggete quello che dice il presidente Napolitano e capite che questa mattina parlare di mafia è qualcosa che fa parte dei nostri doveri di approfondire la realtà che ci circonda. C'è un uomo che da Corleone, dove è nato, dopo un breve soggiorno negli Stati Uniti, arriva a Palermo con in tasca soltanto il suo diploma da ragioniere. Si iscrive alla Democrazia Cristiana, si ingegna e ottiene un importante appalto dalle ferrovie, i carrelli che portano avanti e indietro le merci nella stazione di Palermo. fa anche carriera politica e nel 1959 diventa assessore ai lavori pubblici per il comune di Palermo. Potrebbe essere soltanto il ritratto di una persona d'ingegno, se non fosse che il suo nome compare molto spesso nelle relazioni delle commissioni antimafia e nei rapporti di polizia e carabinieri. Si chiama Vito Calogero Ciancimino. Francesco Alicata, Don Vito Ciancimino, sindaco di Palermo, ex assessore ai lavori pubblici, ha 5 figli. Di questi 5 figli, uno ha deciso di scrivere un libro assieme a un giornalista che passa la storia della nostra miserrima professione per essere uno dei più attenti, profondi, documentati conoscitori della mafia che saresti te nella persona di te. Palermitano, quindi parli delle cose di casa tua. Ecco, come è avvenuto che di 5 figli uno decidesse improvvisamente di scrivere un libro assieme a un giornalista, il termine brutto, mafiologo per modo di dire, ecco? A mio parere molto ha influito il fatto che Massimo Ciancimino ha abbandonato Palermo a un certo punto della sua vita, un po' per seguire il padre che è stato, come dire, inviato al soggiorno obbligato fuori dalla Sicilia, e quindi lo ha seguito a Roma, a Piazza di Spagna, dove abitavano in uno splendido appartamento proprio sul continuava a non farsi mancare nulla comunque. Ma i soldi c'erano, quindi non era difficile. Poi si conosce, si innamora e sposa una ragazza di Bologna che conosce a Cortina, da questa ragazza avrà un figlio e quindi secondo me si libera da quella che era stato il virus che suo padre gli aveva inculcato fin da piccolo, perché il povero Massimo comincia a fare il segretario del padre, che non era ancora maggiorenne, non aveva ancora la patente. Tu l'hai scritto in quel brano che abbiamo ascoltato. È come era normale, era obbligo che il figlio andasse la mattina ad accompagnare il padre dal barbiere a farsi la barba. Sì, quindi era già dentro un meccanismo di obblighi familiari da cui non si usciva. Ineluttabile, era il modo con cui venne organizzata la famiglia in Sicilia. Il padre, specialmente un padre come Vito Ciancimino, che era un padre arrogante, un padre padrone, era difficile sottrarsi a questa cappa, anche perché se no sarebbe stato penalizzato economicamente, nel senso che il padre gli chiudeva i rubinetti dei soldi, e un ragazzo a 17 anni, a 18 anni, in una città che tiene molto all'apparenza come Palermo, senza soldi non è nessuno. Poi io leggo in un blog, non voglio rinnegare mio padre, un'intervista a Massimo Ciancimino. Come si fa a non rinnegare il padre e votare il sacco? Oggi deve essere qui con noi Massimo Ciancimino, perché non c'è innanzitutto? Allora, Massimo stamattina doveva arrivare qui a Roma per venire alla trasmissione, è stato intercettato da alcuni funzionari della DIA siciliana e in questo momento viaggia verso una procura siciliana che lo vuole ascoltare con grande urgenza. Nel tuo pezzo sulla stampa di oggi, cioè il tuo retroscena titolato I misteri del nostro 11 settembre, accenna quello che ci si aspetta in questo momento. Quindi in questo momento il figlio di Ciancimino Junior, è un elemento importante in ciò che ci si aspetta, nel ritrovare il tassello mancante che prova una compromissione di poteri istituzionali in tutta la vicenda delle stragi palermitane. Sì, le rivelazioni di Massimo Ciancimino hanno mischiato parecchio le carte su quella che era una verità consolidata e anche processuale sulle stragi del 92 e del 93. La Cassazione aveva già liquidato i processi, aveva già archiviato i processi addebitandoli alla sola, come dire, manodopera mafiosa. Con quello che ha detto Massimo Ciancimino, ma anche con quello che ha riferito un altro collaboratore di giustizia, che è Gaspare Spatuzza, si rimette in discussione tutta la vicenda dello stragismo della mafia corleonese e vengono fuori delle persone, delle ombre, delle sagome che fanno chiaramente trasparire la loro appartenenza. Questo a signor organismi. Franco di cui si parla. Il signor Franco è un agente dei servizi segreti, adesso non si capisce bene se è italiano in forza al collegamento con un servizio segreto americano oppure addirittura se è il contrario. La mia opinione è che possa essere un agente italiano che però lavora presso l'ambasciata americana, anche perché Massimo questo nel libro lo dice, e lo dice che fino al nel 2006, quando l'ultima volta che incontra fisicamente il signor Franco, lo incontra presso l'ambasciata americana, la Santa Sede, che è al Circo Massimo qui a Roma. Quindi è pure probabile che in questo momento Massimo Ciancimino sia interrogato proprio per cercare di chiarire, di dire finalmente, di definire l'identità di questo fantomatico. Tu hai detto collaboratore di giustizia, ma Massimo Ciancimino, su Massimo Ciancimino non pende nessun procedimento? No, lui ha una condanna a 3 anni e 4 mesi confermata in appello per il riciclaggio dei soldi del padre, ma non ha procedimenti in corso, non ha sconti da chiedere, perché la condanna a 3 anni e 4 mesi non gli comporterebbe eventualmente, se dovesse diventare esecutiva, neppure il carcere, perché usufruirebbe di indulti e cose varie, per cui non è questa la molla che lo ha spinto. Ecco, non chiede nessuno sconto, quindi è motivato da qualcosa di più profondo. E il suo desiderio di liberarsi di questa ombra lunga del padre, che a sentire lui lo perseguita da quando era giovane. Qual era proprio il motivo? Tu che l'hai conosciuto e forse hai istigato in parte il suo coming out, la sua voglia di dire la verità. Cos'è che lo spingeva? C'è qualche motivo profondo, interiore, familiare? Perché non è così facile, perché a questo punto potrebbe dire chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, io ho la mia vita, ormai mio padre ha scontato la sua parte di pena. Evidentemente c'è qualcosa di molto più profondo, se gli altri fratelli poi non lo condividono in questa scelta. Guarda, lui ha un figlio piccolo di 5 anni che ha chiamato Vito come il nonno. Come il nonno. A questo punto gli è venuta una sorta di rimorso per quello che ha fatto questo bambino, chiamandolo col nome del nonno. Addirittura scrive Massimo Ciancimino: mio padre, se fosse vivo, non sarebbe stato d'accordo a dargli questa condanna, praticamente, perché dice Massimo, il nome di Ciancimino è come un ergastolo mediatico, e allora sta cercando di sottrarre il figlio a questo destino che gli viene da questo nome pesante che porta. Ecco, dice, l'unica operazione di riciclaggio che ho fatto in vita mia, una vera operazione di riciclaggio, è questo tentativo di riciclare il nome di Ciancimino, confermando quello che è il giudizio sul padre, perché poi alla fine, al di là dei giornali, al di là dei giornalisti, il giudizio più severo sul padre lo dà lui, lo dà proprio il figlio. Senti, nei codici mafiosi che tu ben conosci, che via via si sono sovrascritti nel mutare delle varie fasi della mafia, com'è considerato oggi secondo te Massimo Ciancimino? È un infame, uno che sputa nel piatto dove ha mangiato, che ha tradito quella che è l'eredità del padre. Quindi è un morto che cammina. Io credo che in questo momento Cosa Nostra non abbia, come dire, in animo operazioni e contromisure cruente, ma nei confronti di nessuno, perché non conviene all'organizzazione. In questo momento la strada che è stata intrapresa è quella dell'inabissamento, del non succede nulla, appunto per fare dimenticare gli eccessi del 92 e del 93. Quindi qual è la controstrategia per annullare e attenuare l'effetto Ciancimino? È roba vecchia, ormai inutile tirarla fuori. Quello che sta accadendo, il muro di gomma attorno a una storia, dicendo: ah vabbè, questo lo sapevamo, e qual è il reato, e che cosa mi stai dicendo, ma questa che è la tecnica del ventre molle di Palermo. Ricordo che a metà degli anni 70 stavamo trascorrendo un periodo di ferie alle terme di Salsomaggiore. Una mattina a colazione mio padre fu avvicinato da un signore magro ed elegante. Mi scusi se la disturbo. Lei sicuramente non mi conosce, io invece sì. Lei è Vito Ciancimino, il politico. Due cose sono esatte. La prima è che sono Vito Ciancimino. La seconda è che non la conosco. Posso? Si accomodi. Grazie. Mi chiamo Stefano Bontade e mi occupo di costruzione. Mi diverte il fatto che quando parlo di zitelle ci sono 50, 60, 70 telefonate, quando parlo di donne perdute altrettante, quando parlo di bricolage domestico i telefoni si arroventano, quando parlo di solitudine dei single, figuriamoci, mi chiamano anche a casa. parlo di mafia, i telefoni sono muti, zitti. Il numero è sempre quello, è 800240024. A esprimere un parere non si rischia molto, come ci dice appunto il nostro collega Francesco Lalicata, che ha scritto assieme a Massimo Ciancimino, Don Vito, Edizioni Feltrinelli. Siamo in una fase in cui la mafia, per adesso almeno, non usa più la lupara, quindi una telefonatina non vi costerebbe molto. Di cosa stiamo parlando invece? Questo incontro con Bontade, io vedo questa vita familiare, questo ragazzo che cresce, tutti i rituali familiari di una famiglia agiata palermitana, quindi le vacanze a Salso Maggiore, e anche lì appaiono questi personaggi, ma lui era veramente così ingenuo, veramente non capiva che tutto quello che aveva intorno, anche il tenore di vita e il terrore delle persone che circondavano, la reverenza, il sossiego, non era causato da qualcosa di un po' diverso, una semplice carica istituzionale. No, quella era la norma, perché un politico che era stato messo in quel posto per volere di un gruppo di potere che era importante e che continuò a gestire Palermo per diversi anni, era praticamente un atto dovuto. Io credo che ma Vito Ciancimino stesso le scrive queste cose in una sorta di diario che negli anni poi ha lasciato al figlio. Molto divertente l'appendice iconografica del tuo libro, gli appunti scritti a mano. Sì, lui era un grafomane, appuntava tutto e con questa grafia minuziosa, proprio com'era la sua mentalità, pignolo e rancoroso. Era così Vito Ciancimino. Il giorno dopo che il suo amico onorevole Ruffini fa una dichiarazione, un grande titolo sull'ora di Palermo, non ho amici mafiosi, gli mando un bigliettino con ricevuta di ritorno, sì. Sei un buffone, querelami e dirò a tutti che sei un buffone, sì. E tieni anche la ricevuta di ritorno. Qui c'è tutto il carattere astioso di Vito Ciancimino, perché lui scrive di suo pugno, non sopportava l'ipocrisia democristiana di dire che la mafia non esisteva e che nessuno aveva amici mafiosi. Sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Mi sente? Sì, l'ascolto, prego. Ah, buongiorno, mi scusi. No, semplicemente, allora, io personalmente stimo lei come conduttore e quando posso sento questa trasmissione, quindi se, per quanto sia di parte favorevole, mi sembra veramente ridicolo dedicare una trasmissione a un libro e un'intervista su questo personaggio, in quanto mi sembra uno che sia un mitomane nella migliore delle soluzioni, nella peggiore è solo uno dei tanti furbi che questa Italia ci regala. E secondo lei qual è? Guardi, io prendo il suo giudizio con il rispetto per un'opinione che dice che il mio lavoro è ridicolo, quindi se questo è il suo punto di vista, mi sta bene. Mi scusi, mi sono espresso male. Sì, un pochino. È ridicolo dedicare una trasmissione. Ridicolo è qualcosa che fa ridere, fa sorridere, comico, lei lo trova comico? Sì, lo trovo comico perché in un'Italia costellata di problemi, non stiamo a dire quali e quanti, che lei peraltro spesso denuncia molto bene, questo è veramente un personaggio da dimenticare. Mi permetta sommessamente di fare una piccolissima appunto a quello che lei dice. Il figlio di un personaggio che ha segnato in maniera così poco piacevole la nostra storia, su cui ci sono delle zone d'ombra molto notevoli, che senza nessun suo vantaggio personale in questo momento fa una sorta di lavaggio pubblico dei panni sporchi di famiglia, secondo me merita attenzione, nel momento che è anche oggetto di attenzione da parte di inquirenti, lo stanno interrogando, lo stanno spremendo, lo stanno cercando di capire, non mi sembra un'operazione poi così priva di utilità raccontare che sta accadendo questo. Io racconto anche il climaterio delle zitelle, ma racconto oggi la storia del figlio di Vito Ciancimino. Francesco Alicata, hai qualcosa da aggiungere al nostro ascoltatore? No, volevo semplicemente sottolineare che la mafia è uno dei più grandi problemi nazionali. Non è vero che non è un problema, è che sia un problema è dimostrato anche dalle recenti polemiche, per esempio sulla legge sulle intercettazioni telefoniche, che alcuni dicono essere una buona legge che va a favore dei cittadini, ma molti altri, come per esempio il Presidente della Repubblica e il Procuratore Grasso, continuano a sostenere che sarebbe un grave intralcio alle indagini contro la mafia, che è un grave problema nazionale. Ma dove possiamo fare e non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella pezza, è più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia, troppe macchine. Scusi se l'ho messa in mezzo a questo traffico, davvero, rimango un minuto per salutare Maria e vado in albergo. No, anzi, è un piacere, Maria le ha preparato una bella stanza. I mali di Palermo, raccontati dal boss che era andato a prendere quello che lui pensava fosse Johnny Stecchino, Roberto Benigni, in realtà c'era una somiglianza, un cambio di persona. Ho in studio Francesco Alicata, autore assieme a Massimo Ciancimino e Don Vito, edizioni Feltrinelli, le relazioni segrete allo strato e mafia, ne racconto in un testimone d'eccezione che è appunto Massimo Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, assessore ai lavori pubblici, poi sindaco di Palermo, personaggio di spicco nella storia dei legami fra Stato e malavita organizzata, i poteri economici degli ultimi anni. Tu sei palermitano, no? Già l'ho detto, sì. Francesco. Questa lettura del palermitano che descrive i mali di Palermo, sono l'Etna, il traffico e via dicendo, è abbastanza frequente. Sì, è quello che ci ha perseguitato quando io facevo il giornalista a Palermo per il giornale L'Ora, che era un quotidiano del pomeriggio battagliero, e venivamo puntualmente accusati di infangare il buon nome della Sicilia tirando fuori argomenti che non esistevano. Come dire, la vulgata, il luogo comune era che la mafia non esisteva ed era un'invenzione dei comunisti, sembra una cosa molto attuale, un'invenzione dei comunisti che serviva per fare la battaglia politica. Ma in effetti, però, anche io a una certa età ormai, ci sono state varie fasi del racconto della mafia, varie maniere di cavalcare anche l'antimafia come condizione di appartenenza, ma in questi ultimi tempi non se ne parla veramente più. Avendo cambiato stile, come dici te, non essendoci più morti ammazzati o sempre di meno, non c'è più da lupare e via dicendo, è riuscita a fare questo grande colpo mediatico l'organizzazione mafiosa? Sì, l'ha fatto perché se ne parla come di un problema risolto. Come se il problema della mafia fosse semplicemente legato alle indagini e alla cattura, per esempio, dei latitanti, cosa che indubbiamente è stata fatta. Ma il vero potere della mafia è quello del condizionamento quotidiano delle attività produttive, per esempio. Basta vedere le ultime contromisure prese persino la Confindustria si è dovuta convincere che c'è un problema, e allora hanno cambiato atteggiamento e adesso hanno fatto le associazioni anti-racket e hanno persino stabilito di espellere gli imprenditori che pagano il pizzo o che negano l'esistenza del pizzo. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo da Palermo. Intanto volevo dire che insomma seguo sempre la vostra trasmissione e la trovo sempre molto ben fatta, insomma. Io volevo rilegarmi a un discorso fatto da un radioascoltatore prima, dove appunto diceva che per lui è assurdo fare una trasmissione su queste cose, che comunque dica sempre informazione, quindi è giusto farla. Io da palermitano volevo dire che secondo me è ancora più assurda è la cosa che insomma un palermitano deve andarsi a comprare il libro per sapere quello che è successo, insomma, in quegli anni dove si è distrutta una città, un popolo intero. Dico assurdo perché secondo me è dovuto a noi insomma farci sapere quello che sia successo. Dico, le cose le possiamo apprendere anche da un dossier scritto su un giornale, su una rivista. Sì, ma non credo che l'Alicata abbia la pretesa di avere pubblicato una sorta di documento che deve essere un Vangelo per i palermitani. Fa un giornalista, ha messo insieme sue osservazioni. Francesco Alicata. Sì, il libro, come dire, può essere il completamento di una serie di conoscenze che nel corso degli anni ci sono state. Io lo so benissimo, anch'io sapevo esattamente le cose che erano accadute a Palermo, eppure quando Massimo me le ha raccontate con quella dovizia di particolari, con quella precisione nel racconto, per me è stato come rivedere un film che avevo già visto, però mi sono reso conto di quanto giuste, di quanto esatte fossero quelle che allora erano intuizioni e forse oggi possono essere considerate qualcosa di più di un'intuizione. Stiamo Massimo, buongiorno. Buongiorno, salve Nicoletti e complimenti per la trasmissione. Anche lei da Palermo chiama? Sì, però vivo a Perugia adesso. Io volevo un po' dire, intanto che stimo tanto Massimo Ciancimino, perché secondo me non è un mitomane, anzi, comunque sia sta dicendo delle cose che secondo me sono verissime e non ha alcun interesse poi a dirle, anche perché sta sputtanando per primo il papà. Certo. Famoso per ma anche il grande in parte, sacco ma anche, di Palermo, ma anche in parte se stesso, perché certe sue responsabilità emergono evidenti, come diceva prima la Licata. Sì, e poi perché comunque è un po' come quando ci fu nel 78 l'omicidio Moro, secondo me anche lì c'erano i servizi segreti deviati di mezzo, perché non io non vorrei trasformare però i problemi più importanti in chiacchiere da barbiere, sì. Però in Italia non si vogliono ascoltare, capito? Si parla addirittura adesso, se si sentono i politici, sembra che la mafia non esiste più. Io sono di Palermo e le dico che la mafia esiste, e come? E forse più di prima. Ecco, lei mi spieghi, così mi piace avere la sensazione di un non addetto ai lavori, perché la Licata sono 50 anni che studia la mafia. Lei proprio come cittadino palermitano, che adesso vive a Perugia, quindi ha cambiato completamente ambiente, Perugia è la mia città, quindi pensi quanto la conosco bene. Mi rendo conto della significa, anche se è una città molto contaminata da presenze di vari tipi, c'è il clan dei calabresi, il clan dei marchigiani, il clan nel senso sono ragazzi, sono venuti a studiare, poi sono sposati le perugine o i perugini, hanno messo su famiglia, poi stanno negli ospedali, fanno gli avvocati, quindi è una città in cui non c'è questa forte, netta discriminazione, c'è spazio per tutti. Come percepisce la mutazione del fenomeno mafioso nella sua città? Ma a Palermo o qua a Perugia? Ah beh, mi apre uno scenario nuovo. Parliamo della Sicilia, sì. Secondo me, sì. Questi sono ordini completamente impartiti dopo le stragi del 92, perché comunque hanno fatto troppo casino e hanno fatto qualcosa che è sempre stato contro l'ottica mafiosa, cioè io ricordo anche quando ero piccoletto, tanti amici di mio papà venivano ammazzati, però sparivano, vittime della lupara bianca, e siccome ci volevano 7 anni per prima che si trovasse il corpo, te comunque per 7 anni non potevi dire che era morto. È sempre stata quella la politica. La Licata mafiosa dice 10, il termine della scomparsa era 10. Sì, è la morte presunta, la dichiarazione di morte presunta. Vabbè, 7 o 10. E mi ricordo che sparivano in tanti. Io mi ricordo che in periodo avevo anche paura per mio papà, appunto, perché sti amici suoi facevano tutti sta fine. Adesso comunque poi nel 92 c'è stato tutto quello che c'è stato. Adesso comunque è proprio quello, profilo basso comunque, e fare un po' dimenticare quello che è successo 20 anni fa. Abbiamo altri ascoltatori, tra cui Alessandro, che aspettano un po', ma parlerà fra poco Alessandro. Questa lettura completamente naive del fenomeno mafioso corrisponde a... È perfetta perché parla della mutazione genetica che c'è stata anche dentro Cosa Nostra, che prima non attaccava frontalmente lo Stato, ma dalla fine degli anni 80, dall'inizio degli anni 90, ha cambiato strategia facendo proprio l'attacco frontale con le bombe e con gli attentati, cosa che non è nel suo DNA, quindi sicuramente deve aver avuto dei consiglieri o dei suggeritori. 800 24 00 24, non che voglia fare il permaloso, ma che diceva sull'inutilità, sulla buffoneria di questa trasmissione, a me conforta il fatto che un parere di un qualsiasi ascoltatore che ha un'esperienza di vita corrisponde poi a quella che è la lettura di un esperto della materia. Come chiude questo libro, Il figlio di Ciancimino? Che immagino che è come strapparsi qualcosa di molto doloroso. Questo non è il solito libro lo diciamo prima, fatto di livore, fatto di prese di posizione, di antimafiosità professionale. È qualcuno che si strappa dalla carne qualcosa che è dolorosamente attaccato a questa carne. Ma c'è una frase che a me è piaciuta molto. Lui dice: quanto mi piacerebbe, dice, ho degli impianti, si chiede, dice sì, ho degli impianti, e poi aggiunge: quanto mi piacerebbe poter dire adesso a mio padre, papà, vaffanculo, vai, non mi coinvolgere nelle tue cose, e se vedo ancora il signor Loverde, che era il nome falso di Provenzano, a casa mia, chiamo i carabinieri. Sentiamo Alessandro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo perché, insomma, ritengo sia sempre importante parlare di criminalità organizzata, soprattutto alla luce del fatto che è un'emergenza comunque nazionale ormai, e soprattutto un fenomeno sociale molto radicato. Volevo ricordare appunto l'aiuto che hanno dato i collaboratori di giustizia, soprattutto poi oggi, insomma, siamo nei giorni dell'anniversario della morte di Falcone. La nascita dei collaboratori di giustizia è stato il prezzo della morte, diciamo, di Falcone. Lui la chiedeva da tanto tempo, e ritengo che, insomma, anche l'aiuto dato da Ciancimino sia importante. Ma lei, leggo la scheda, che conosce Ciancimino, ha conosciuto Ciancimino? Sì, perché in realtà sono anche io un giornalista e mi occupo proprio di criminalità organizzata, e quindi appunto l'impressione che mi ha fatto è stata molto positiva, di una persona che comunque porta un peso non indifferente, che, come diceva il collega in studio, insomma, soprattutto nei confronti di suo figlio, a un certo punto della sua vita ha deciso, insomma, di togliersi da dosso questo peso, e questo è il modo che ha trovato, insomma, per farlo. Ecco, lei ha mai avuto l'impressione che in realtà, che è l'accusa più facile, quindi la prevengo, dietro tutta questa presa di coscienza Ciancimino ci sia una volontà, una necessità, un movimento politico, qualcosa del genere? Io ritengo di no, in tutta onestà, e come diceva anche il collega studio, Ciancimino non è una persona che è a caccia, diciamo, di sconti di pena o di aiuti da parte della giustizia. Ma io lo vedo anche discreto nella sua esposizione personale, non è uno che va nelle piazze, fa i comizi, cerca la copertura mediatica, è quasi in sordina la sua presenza, adesso perché è uscito questo libro, ma non era un personaggio che vedevamo tutti i giorni in televisione o che vedevamo al centro di grandi attenzioni. Corrisponde, Francesco, questo? Sì, il primo gesto di Massimo Ciancimino è stato quello di andare dai magistrati, dopo che ha riempito centinaia di pagine di verbali, e è balzato all'attenzione mediatica, ma dopo che dal processo era venuto fuori nella sua attendibilità, perché ricordiamoci che lui parla ma porta anche pezzi d'appoggio, il famoso papello che tutti cercavamo in Italia e di cui abbiamo dubitato della desistenza del rapporto Farina, e esattamente il papello, cioè le richieste che la mafia di Totorrina fece nel 1992-93 allo Stato in cambio dell'astensione dal mettere le bombe. Tutti sorridevamo pensando a questa benedetta carta con i 12 punti di richiesta, alla fine è venuto fuori. Nora, buongiorno, 18 anni. Buongiorno. Buongiorno Nora. La sto ascoltando? Noi volevamo intervenire, ma in modo molto così, perché... Noi, quando dice noi, chi siete? Quanti siete? Una classe. Una classe siete? Che classe siete? Siamo la classe, una terza del Vincenzo Capirola di Veno, a Brescia. E ascoltavate la radio questa mattina? Sì, perché col professore di diritto ascoltavamo le lezioni tipo il 24 ore, così, allora abbiamo trovato... Ah, mi fa piacere che un professore è illuminato, il suo insegnante, mi fa molto piacere, fa ascoltare la radio in classe. Mi è andata bene che l'altro giorno parlavo di zitelle, quindi oggi, diciamo, ha qualcosa di didattico, almeno per la vostra età. E cosa volete fare? Volevamo intervenire dicendo che anche nelle scuole si parla di antimafia con interventi di associazioni. Era venuta un'associazione, Ammazzateci Tutti, di un ragazzo che si chiama Massimo Brugnone, e ci aveva parlato appunto come ha fatto iniziare a combattere l'antimafia anche lui. Ma in modo molto esplicito, cioè non sapeva neanche lui che... Lei sta parlando davanti a tutti i suoi compagni di classe? Sì. Con il professore pure? Sì. Se sbaglia qualcosa poi la segherà, naturalmente. No, è andata bene, va bene. Continuate ad ascoltare, sennò portiamo via tempo alla vostra voglia di capire, di sapere e la nostra modesta possibilità di darvi elementi in più. Buona giornata e complimenti all'insegnante. Antonino. Buongiorno. Eccomi. Ti chiamo da Palermo. Poco fa lei... Oh, ma vi siete svegliati tutti oggi? Io mi dicevo con Fabrizio Intonti giorni fa, non ci arrivano mai telefonate alla Sicilia. Allora ci ascoltate in Sicilia. Il problema è che a Palermo, almeno da parte mia, c'è molta rabbia a vivere in questa città dove manca assolutamente lo Stato, il sindaco, l'autorità e qualunque cosa. Il discorso della mafia, noi tutti, un parte, piccolo, grande, siamo mafiosi, perché quando lei... appunto perché non ha possibilità di sponda di uno Stato che non esiste, di un sindaco che non esiste, qualsiasi sopruso, qualsiasi angheria la sopporta e quindi diventa anche lei mafioso, perché manca lo Stato, manca l'autorità. Se lei si fa una passeggiata per Palermo a piedi, come faccio io sempre, spesso, si cammina su un tappeto di immondizia solidificata, di sporcizia, di strade rotte, di marciapiede rotto. Guardi, io non voglio sembrare... Ci sono stato da poco tempo, ho fatto una bellissima giornata insieme al mio collega Morigi, dovevamo andare a un convegno, ma quel giorno c'era stato un temporale, quello che ha organizzato il convegno è morto perché gli è caduto un albero addosso e l'ha ucciso. Quindi ho passato una giornata meravigliosa a Palermo, però... Sentiamo Francesco Alicata a Palermitano, meglio di me. No, volevo, al mio conterraneo, volevo ricordare che il sindaco di cui parla male è al suo secondo mandato e che è stato regolarmente eletto, non è andato a fare il sindaco col carro armato, quindi l'hanno eletto i palermitani e i siciliani. C'è qualcosa che non funziona in quello che mi dice stamattina il mio amico. Sentiamo Alessandro. Alessandro? Sì, buongiorno. Sono pieno di palermitani oggi, stanno telefonando. Però intanto... No, io sono bolognese. Bolognese. Volevo dire questo, no? Facendo riferimento a quanto lei aveva detto stamattina, che quando fa la trasmissione sulle zitelle chiamano 50.000 persone, su Nicolai. Beh, è un problema, persone. Mi rendo conto che è molto sentito, che discorsi. No, certo, anche io me ne rendo conto, però penso lo anche lo sente questo. Anche lei. Sì, però penso anche questo. Forse la mafia... e viene vista e vissuta ancora come un fenomeno siciliano, non come un fenomeno nazionale. Allora la gente lo guarda da lontano, finché la mafia parla siciliano con quell'accento tipico finché continueranno a dire cosa nostra, certo, è così, e ormai... Io credo che la gente faccia prenda la palla al balzo per rimanerne lontana. Osservare come qualcosa che non ci tocca, invece è chiaro che questo, una sola battuta a Fausto, perché a 20 anni è raro avere ascoltatori così giovani in questa fascia oraria. Fausto, il suo parere. Salve, sì, volevo ragionare con lei di come in Italia si ragiona al contrario sui libri di mafia, cioè per esempio ci si concentra sull'autore piuttosto che sull'argomento. Per esempio abbiamo ascoltato un signore che diceva che Ciancimino è un mitomane, sarà anche vero, ma l'argomento di cui tratta è l'argomento forte, reale, su cui dovremmo riflettere, più che riflettere su Ciancimino se sia un mitomano o no. Francesco Alicata, su questa ultima battuta del ragazzo? Sì, è vero, noi spesso ci facciamo fuorviare, le cose che dice, l'unica domanda a cui risponde lei, le cose che dice Ciancimino sono vere, sono dimostrate o no? Se sono dimostrate hanno diritto di entrare in un processo giudiziario, se non sono dimostrate rimangono una suggestione, ognuno la prende come vuole. E ciò che questo libro ha una prova sempre a fronte rispetto a quello che si dice. Non voglio fare elogi al mio libro, ma secondo me è un libro, come dire, obiettivo. Grazie Francesco Alicata, grazie agli ascoltatori, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione si sente.